Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. Oggi torniamo sul pensiero di Gianni Rodari nel mondo. Abbiamo già visto come non solo in Italia l'opera del grande narratore Diomegna fu diffusissima, ma ebbe grande importanza in Europa e non solo nell'allora URSS, dove evidentemente il trovarish Rodari era di casa, ma anche nei paesi occidentali del vecchio continente. Oggi invece andiamo oltre le colonne d'Ercole del pensiero rodariano e cominciamo proprio dagli Stati Uniti d'America. Sulla presenza di Rodari negli State abbiamo intervistato Maria Truglio, docente presso la Pennsylvania State University, per la letteratura italiana dall'Ottocento al presente e sulla cultura italoamericana. Maria Truglio è anche una delle collaboratrici del volume curato da Letterio Todaro su Gianni Rodari nel capitolo Letture critiche dell'opera di Gianni Rodari negli Stati Uniti. Dopo lo stacchetto musicale, la stessa professoressa Maria Truglio ai microfoni di Morina Moretti. Maria Truglio, per ciò che riguarda gli studi sulla letteratura per l'infanzia, che spazio occupa Gianni Rodari negli Stati Uniti? Prima della pubblicazione di Telephone Tales nel 2020, del corpus ricchissimo di Rodari avevamo solo 9 opere tradotte in lingua inglese, con le prime 5 pubblicate non negli Stati Uniti ma a Londra. E ovviamente la mancanza di traduzioni in inglese limita la ricezione critica dell'autore, purtroppo. E direi che nell'ambito degli studi sulla letteratura per l'infanzia negli Stati Uniti, Rodari occupa uno spazio molto rispettato, anche molto ammirato, ma purtroppo assai limitato. E si trova, possiamo dire, in seconda posizione dopo Carlo Collodi fra gli scrittori italiani per l'infanzia. E Rodari è più studiato, più conosciuto di De Amicis, di Baccini, di Piumini, di tutti infatti, tranne Collodi. Però non vuol dire che esiste un corpus di studi in inglese molto ampio o molto ricco. In realtà quello che abbiamo è molto spesso, non sempre, ma molto spesso, il lavoro di un critico italiano, ad esempio Pino Boero, Marni Campagnaro, così via, o scritto direttamente o tradotto in inglese e poi pubblicato su un giornale accademico americano. Ma gli studi che esistono sono sempre positivi e si trovano nei giornali più prestigiosi del campo. Ad esempio, The Lion and the Unicorn ha pubblicato un numero speciale dedicato alla letteratura per l'infanzia in Italia, che include vari interventi su Rodari. Nel 2020, Marvels and Tales, un altro giornale accademico molto rispettato, ha fatto un numero con molti interventi sull'autore. Spesso gli interventi mirano a presentare Rodari ad un pubblico americano che non conosce l'autore e offrono un panorama, diciamo, delle sue opere. Però si può percepire vari temi più specifici e vari filoni fra di loro, no? Fra questi studi. Un aspetto molto stimato di Rodari è la sua mescolanza unica dei valori politici di Antonio Gramsci e dello spirito carnevalesco descritto da Michel Bakhtin. Gramsci e Bakhtin sono molto amati dai critici letterari in America. La sua capacità di agganciare la gioia della fantasia ai fatti della realtà anche rende la voce di Rodari così ammirato dagli americani che conoscono le sue opere. E anche vediamo, no, uno spirito americano che si trova nella frase rodariana citata forse più spesso nella critica letteraria anglofona, cioè quella frase famosa: tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un buon motto dal ben suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. È una frase che echeggia perfettamente i valori del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, no? Che garantisce la libertà di parola e di stampa. E direi che questo spirito liberatorio attira molto gli studiosi americani. E poi vediamo nel 2006 Gianni Rodari è stato l'unico autore italiano rappresentato nel volume Beyond Babar, un volume dedicato alla letteratura per l'infanzia in Europa. E Rodari ha tenuto un posto privilegiato anche nel 2015 durante la conferenza annuale della Children's Literature Association con una sessione intera dedicata a Rodari. E il titolo di quella sessione, Tales of Power and Independence, Liberating Legacies of Gianni Rodari, no, anche il titolo dimostra i valori per cui Rodari è così amato dagli studiosi che lo conoscono, no? Il valore di liberazione e indipendenza nei confronti della creatività del bambino. E gli studiosi che hanno pubblicato o parlato su Rodari in inglese, anche se ce ne sono pochi, sono fra veramente le rock stars del campo. Abbiamo Jack Zipes, ovviamente, Judith Plotz e Lawson Lucas, ad esempio. Ci sono anche alcuni corsi sulla letteratura italiana che includono testi di Rodari qui negli Stati Uniti. Io tengo un corso qui presso la Penn State University e dove i miei studenti rispondono sempre positivamente alle poesie che li faccio leggere. E c'è anche un corso presso l'Università di Virginia che conosco. E vedremo cosa succede sulla scia di Telephone Tales e speriamo che il volume potrà suscitare più interesse fra gli studiosi negli Stati Uniti. Truglio, come fu accolto dagli studiosi il testo pedagogico La grammatica della fantasia, che fu tradotto per la prima volta nel 1996 da Jack Zipes? Grazie almeno in parte alla fama di Jack Zipes negli Stati Uniti, che da anni gode di una reputazione molto rispettata, sia per le sue traduzioni, sia per i suoi studi critici delle fiabe in particolare, il libro ha avuto un livello di successo. E infatti sta per uscire una nuova edizione illustrata, questa volta presso la Enchanted Books, la stessa casa che ha appena pubblicato Telephone Tales, no? La nuova edizione in inglese. L'edizione del 1996 è uscito con The Teachers and Writers Cooperative, una casa newyorkese che si dedica alla coltivazione della creatività fra studenti e insegnanti. E dico un livello di successo nel senso che tutti gli studiosi che lo citano o lo analizzano sempre sottolineano gli aspetti positivi del testo, no? Soprattutto ammirano il modo in cui Rodari rispetta il bambino, riconosce che il bambino non è un sito di nostalgia per un'innocenza perduta, ma invece una persona che merita il rispetto, appunto, e piuttosto che un recipiente vuoto che assorbisce passivamente le nostre lezioni da memorizzare e ripetere, Rodari vede nel bambino la capacità di produrre e di creare. E gli studiosi sottolineano il potenziale liberatorio delle sue strategie, no? Le strategie specifiche che lui suggerisce nel testo. Il giornale accademico americano Marvels and Tales, un giornale molto prestigioso, nel 2020 ha fatto un numero dedicato a Rodari e fra altri articoli Marni Campagnaro, scrivendo in inglese, ha ripassato il pensiero rodariano rispetto alle fiabe, citando fra altri testi la grammatica e dichiarando che ancora oggi si vede che Rodari aveva ragione, dice. In quel numero di Marvels and Tales anche Elana Massi ha contribuito un elogio alla grammatica, riassumendo il suo contributo nel contesto italiano. Però anche qui, con questo testo pedagogico, come nel caso della sua letteratura, direi che questo successo è un successo limitato per quanto riguarda la sua diffusione. No, certo, fra insegnanti e studiosi della pedagogia, la filosofia di Maria Montessori, ad esempio, si gode una diffusione estremamente più ampia, con almeno 4.000 scuole negli Stati Uniti, rispetto a quella rodariana, ma forse con la nuova edizione vedremo una diffusione più estesa. This land is your land and this land is my land. California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Maria Truglio, secondo lei esistono ragioni storiche e politiche che spiegano l'assenza delle opere di Rodari negli Stati Uniti, a parte la recente traduzione di Favole al telefono in occasione del centenario della nascita del maestro? Si vede facilmente che negli Stati Uniti la letteratura per l'infanzia spesso diventa un sito, un campo dove gli adulti in un senso vanno in guerra politicamente. Solo alcuni giorni fa un distretto scolastico nello stato di Tennessee ha votato di cancellare l'albo illustrato Mouse di Art Spiegelman dal loro curriculum per le scuole medie. E hanno detto che il libro impiega parolacce e nudità. E la decisione di quel distretto ha aperto una discussione nazionale sulla questione, no? E poi negli ultimi anni il cosiddetto critical race theory, oppure la storia del razzismo, è diventato un vero bersaglio dei politici di destra. E sentiamo ogni giorno le voci di politici, di genitori che vogliono proibire l'inclusione di questa prospettiva, no? La prospettiva di critical race theory nelle scuole, per via del disagio che potrebbe suscitare nei bambini, e specificamente nei bambini bianchi. E poi leggiamo molto spesso dei distretti scolastici che vogliono censurare i libri per l'infanzia che mettono in rilievo le esperienze di protagonisti gay o trans, no? Allora abbiamo negli Stati Uniti, diciamo, una tradizione ricca di usare la censura nel campo della letteratura infantile per motivi politici. Nel caso di Rodari, vari critici italiani hanno suggerito che i motivi per la scarsa fama di Rodari negli Stati Uniti si trovino nella politica della guerra fredda. E citano anche il caso di Dario Fo e Frank Arame negli anni '80 qui negli Stati Uniti. Infatti, anche l'articolo su New York Times, scritto in occasione della pubblicazione di Telephone Tales, no, nel 2020, anche ha suggerito questo motivo, cioè il comunismo di Rodari, per spiegare l'assenza dei suoi testi qui finora. E la cronologia sostiene questa idea. No, vediamo che è solo a partire dal 1996 che le case editrici americane pubblicano i suoi testi, cioè alcuni anni dopo la caduta del muro di Berlino. Ma non so se esistono documenti negli archivi delle case che potrebbero provare questa ipotesi. E però, come sottolinea Claudia Alborghetti, no, la risposta forse giace nella realtà del mercato americano dei libri per l'infanzia, un mercato già pieno di libri domestici e un mercato che lascia poco spazio ai testi stranieri, no? Testi di qualsiasi lingua e qualsiasi persuasione politica. No? Cioè, forse non è un motivo direttamente politico, ma invece una ragione economica. E in questo senso abbiamo il modello nel caso di Harry Potter. No? La versione originale si chiama Harry Potter and the Philosopher's Stone, anche se non mi sbaglio in italiano e il titolo è così, ma qui negli Stati Uniti la casa editrice Scholastic Corporation ha cambiato il titolo e il libro qui si chiama Harry Potter and the Sorcerer's Stone, cioè la pietra del mago, siccome la filosofia non avrebbe attirato molti lettori giovani in America. No, come Claudia Alborghetti suggerisce, forse è una questione di marketing e in questo senso i premi come il Hans Christian Andersen Award contano molto. Speriamo che Telephone Tales, che ha già vinto 2 premi per traduzioni, sarà in grado di presentare la ricchezza della visione rodariana al pubblico americano. Dunque, con la professoressa Maria Truiglio della Pennsylvania State University abbiamo conosciuto la diffusione di Rodari negli Stati Uniti d'America tra luci e ombre. Se invece ci spostiamo e cambiamo completamente scenario mondiale, andiamo nella grande India, un continente addirittura ricco di storie, miti, favole, leggende, beh, scopriamo che invece Rodari è ancora un perfetto sconosciuto. Nella direzione di renderlo più avvicinabile alla cultura indiana, una nostra ricercatrice, Beatrice La Terza, ha messo a confronto Gianni Rodari proprio con Vrinda Dhar, militante attivista nonché anche una produttrice di volumi sulle favole della nonna dell'India. Sempre ai microfoni di Morena Moretti, Beatrice La Terza su Rodari in India. Beatrice La Terza, la tua tesi di laurea in mediazione linguistica e culturale mette a confronto delle favole, che sono le favole di Gianni Rodari, in particolare favole al telefono, con favole indiane che sono state raccolte. È una scelta molto interessante, molto particolare. Ci puoi spiegare che cosa ti ha motivato in questo lavoro? Quello che mi ha motivato a accostare i due autori tanto, tanto distanti è stato il desiderio di mettere in pratica anche i miei studi triennali della lingua hindi per cercare di avvicinare un potenziale pubblico indiano a un autore italiano che mi stava molto a cuore, quindi Gianni Rodari. Per portare avanti questo lavoro è stato necessario però selezionare un numero limitato di favole contenute nella raccolta favole al telefono. In queste favole indiane tu le hai anche tradotte per la tua tesi, sì, esatto. E sono state messe a confronto con favole indiane di Vrindadhar, nel senso della tradizione che lei, certo, ha tradotto in italiano. Esatto, in realtà la versione in lingua hindi è stata curata da Vrindadhar, mentre la traduzione in italiano, il testo è stata curata da Silvia Gallo. In India le favole di Rodari sono tradotte? No, non abbiamo in realtà trovato nessuna traduzione delle sue favole o in generale dei suoi racconti, e anche per questo in realtà mi ha appassionato l'idea di portare avanti un progetto simile, quindi tentare per quanto possibile di offrire una prima traduzione. Quindi la prima traduzione di fatto è la tua, poi speriamo che verranno pubblicate. Esatto, io spero che qualcuno le possa leggere, però in realtà per ora non è in progetto che vengano pubblicate, anche perché appunto è un lavoro molto breve, chiederebbe anche una conoscenza più approfondita della lingua. Per i due autori, parliamo quindi di Gianni Rodari e Vrindadhar, hai trovato che abbiano dei percorsi comuni? Ho trovato alcune similitudini, entrambi nella loro vita sono stati impegnati, Vrindadhar lo è ancora, impegnati in diverse cause. Vrindadhar è attiva in India e non solo, in realtà, perché fa parte di associazioni in giro per il mondo. Il lavoro che porta avanti in India, un lavoro di tutela della tradizione, oltre che del patrimonio artistico e culturale, in particolare della città di Varanasi, che è la città in cui appunto la ospita in India e che ospita anche la sede della sua prima ONG. E quindi anche queste sette favole che lei ha curato per l'edizione italiana fanno parte un po' di questa sua mission, cioè quella della tutela anche delle tradizioni. Cioè il suo ricordo di infanzia che decide di condividere con un pubblico più ampio, un pubblico italiano al quale in realtà non si era mai rivolta, perché lei in vari progetti che porta avanti non avevano ancora previsto la pubblicazione di libri. Non la definirei neppure un'autrice in realtà, perché è proprio più attivista che altro. Ha voluto condividere il suo ricordo di infanzia e condividere una parte, un piccolo assaggio della tradizione indiana con questa raccolta, però il suo è un lavoro molto più pratico. Beatrice La Terza, quindi tu hai naturalmente analizzato a fondo queste favole di Rodari e anche le favole della tradizione indiana, quindi veniamo alle similitudini, alle tematiche comuni che ci sono in queste favole. Ci sono, cosa sei riuscita a trovare, ovvero c'è un filo conduttore che lega un po' tutte le favole, diciamo, del mondo e queste in particolare? E alcuni temi sono ricorrenti, da quello della crescita, la scoperta di sé che troviamo in entrambi, ma è stato interessante anche a livello proprio strutturale vedere come entrambe le raccolte abbiano un'origine simile, nel senso che l'incipit a favole al telefono è proprio il padre che racconta, si prende l'impegno ogni sera di chiamare la figlia e raccontarle al telefono una nuova favola ogni sera. Dall'altro lato l'incipit, nell'introduzione a Sette favole dall'India, Vrindadhar ci racconta come quelle che leggeremo sono il frutto del suo ricordo di infanzia, sono le storie che sua nonna le raccontava ogni sera. Quindi trovavo carina anche questa somiglianza, oltre al fatto che appunto le tematiche in realtà contenute e sviluppate nei racconti, entrambe le raccolte sono vicine, quindi dicevo il discorso della crescita, della scoperta di sé, in generale anche del rischio di farsi poi abbagliare ciò che è materiale, abbandonando le cose essenziali. Sì, in realtà non sono uguali naturalmente, certo, ma sono comunicanti a loro modo, anche perché destinati da un pubblico molto giovane, non solo per la raccolta Sette Favole dall'India. Io credo non la destinerei semplicemente ad un pubblico bambino, ma in realtà molto più ampio. Per esempio, altri colleghi dell'università che studiano la lingua hindi, per esempio, potrebbero facilmente approcciarsi anche a questa raccolta. Invece per quello che riguarda la modalità del linguaggio, qui ci sarà davvero un po' di distanza, perché Rodari aveva una modalità di scrittura molto particolare, molto, diciamo, fantastica, fantasiosa, spesso con giochi di dire parole, rimandi. E nelle favole tradizionali si riscontra qualcosa del genere? Parlo di quelle indiane, ovviamente. No, anche leggendo il testo a fronte in lingua hindi, non la ricchezza che troviamo in Rodari a livello appunto di scelte linguistiche e particolarità di scrittura, insomma, non la troviamo in questi racconti riportati da Vrindadhara e Sofia Gallo. Però bisogna anche dire che sono di epoche diverse, no? Sono anche molto diverse, ecco. È vero. Questo lo riconosco anche io. In generale, anche l'idea con la quale sono nate probabilmente quelle storie è diversa rispetto al lavoro svolto da Rodari. Beatrice La Terza, il tuo lavoro sarà quello di mediatrice culturale. Quindi con questa tesi che hai fatto, questo studio approfondito, ti sarà anche servito anche per il futuro. Quindi è un'esperienza che ti darà la possibilità relazionarti anche con culture diverse anche nel nostro paese in modo migliore. No, certamente questo è quello che mi auguro e che vorrei accadesse, nel senso che spero davvero di poter continuare a convivere le conoscenze e anche le competenze che ho acquisito attraverso questo percorso di studi per davvero approcciarmi. Mi è servito proprio anche a lavorare a questo elaborato finale, so anche davvero a sforzarmi nel creare in questo caso erano dei ponti tra due opere letterarie, però è sempre per me stimolante questo tentativo di avvicinarsi o comunque comunicare creando sì dei ponti che permettano di comunicare in maniera efficace. E questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafujiko.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.